Sì, è un po' sequel delle puntate precedenti di cui, in cui descrivevamo un po' la manovra di basso profilo del governo, ma un sequel abbastanza, come dire, inatteso, nel senso che, come avevamo già detto nelle scorse occasioni, commentando il DEF prima e poi la legge di bilancio successivamente, il governo ha tentato di continuare sul percorso della riduzione del disavanzo, ma con una velocità più contenuta rispetto a quanto richiesto inizialmente dalla Commissione europea, e questo si traduce, secondo quelli che sono gli ultimi calcoli sempre della Commissione, in un minore sforzo di aggiustamento fiscale, che invece di attestarsi allo 0,6% del PIL come deficit ridotto per il prossimo anno, si attesta allo 0,2%. Il governo aveva dichiarato 0,3, ma ci sono delle diverse metodologie di calcolo rispetto a questo parametro, quindi la Commissione sostiene che sia 0,2. Questo, che naturalmente va ricondotto a quella grandezza che chiamiamo deficit strutturale, che non è una grandezza direttamente osservabile, ma è sostanzialmente quella parte del deficit registrato dal governo ogni anno che viene considerata non ciclica, quindi non legata ai fattori contingenti dell'economia, che possono essere varie forme di calamità o di spese legate a semplicemente fenomeni che non sono duraturi nel tempo, ma quella parte del disavanzo che si ritiene che sia invece proprio discrezionale, cioè decisa dal governo per suoi obiettivi politici. Chiaramente capire quale parte, diciamo, del deficit va imputata alla parte discrezionale, quale parte invece è ciclica, è sempre un qualcosa di molto arbitrario. Tutto ciò comunque per dire che la Commissione europea sta facendo pressione sul governo italiano perché invece la velocità di aggiustamento del suo disavanzo sia quella richiesta dalle regole europee, e quindi non sia rallentata come invece il governo italiano desidera. Nell'ultimo anno sostanzialmente il contributo del governo Gentiloni alla crescita è stato piatto, nel senso che si è cercato comunque di mediare tra tutte le esigenze delle parti in causa: da un lato l'Europa, come abbiamo già detto più volte, e dall'altro, diciamo, l'esigenza di non soffocare l'economia ulteriormente con ulteriori tasse. Infatti per il 2018 è stata scongiurata l'attivazione delle clausole di salvaguardia, che poi si traducono in aumenti forzati dell'IVA. Questo aumento però, come risulta appunto dall'ultima versione della legge di bilancio, viene semplicemente rinviato al 2019, cioè si è riusciti a guadagnare un anno di tempo, come dicevamo un po' anche l'altra volta, presumibilmente un anno di tempo guadagnato in vista di elezioni politiche difficili che riguardano non solo l'Italia ma tutta l'Europa, ma per il 2019 il ritmo è previsto, diciamo, ripartire come stabilito. Secondo le fonti, insomma, del Ministero dell'Economia, in realtà si tratterebbe, questo sorta di braccio di ferro di cui abbiamo parlato, si tratterebbe di semplice ordinaria amministrazione che accade ogni anno. Ma è interessante notare che mentre ad esempio durante questo anno, questo 2017, il ministro Padoan quasi personalmente, cioè quasi più a nome di se stesso che a nome dell'intero governo, è riuscito ad ottenere diversi favori in termini di flessibilità da parte della Commissione. In primis l'emissione di titoli di debito pubblico utilizzati almeno formalmente per il salvataggio delle banche, debito pubblico che viene appunto emesso ma le cui spese non vengono conteggiate nel disavanzo pubblico annuale, quindi questo dà al governo ampio margine di manovra, anche perché non sono stati utilizzati tutti i 20 miliardi in questione solo per le banche. E in più c'è stato anche un'altra concessione data a Padoan riguardo appunto alle spese per l'immigrazione, che sono ancora motivo di dibattito, nel senso che la stessa Commissione europea ha accettato di scorporare delle spese per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti, che nonostante siano diminuiti in numero di sbarchi stanno comportando spese aggiuntive rispetto a quanto stabilito all'inizio anno. Quindi il segnale politico che sembra provenire dall'Europa è quello comunque di non mollare la presa nonostante le elezioni siano in corso. Infatti volevo farti una domanda su questo, sì. Perché leggevo da alcune stime che negli ultimi 3 anni appunto l'Italia è riuscita in un modo o nell'altro a farsi fare uno sconto di 20 miliardi di euro. In questa occasione, visto proprio lo spauracchio dell'avanzata del populismo, potrebbe usare questo argomento per strappare altri sconti a Bruxelles? È assolutamente probabile, secondo me, che questa sia la strategia utilizzata dal governo, e in parte lo si vede anche dalle dichiarazioni. Spesso è l'argomento dell'immigrazione quello che che viene portato avanti, almeno dal Ministero del Tesoro, secondo le ultime dichiarazioni, ma proprio l'idea è esattamente quella di negoziare con la Commissione Europea questa presa che deve essere in qualche modo allentata sull'economia per evitare che i partiti populisti comunque o anti-establishment che dir si voglia possano guadagnare consenso. Ultimamente chiaramente vediamo dai sondaggi che in realtà lo scenario politico è abbastanza statico, non c'è grossa crescita, diciamo, del sostegno a questi partiti, ma è chiaro che se poi dovessero essere approvate misure molto restrittive, chiaramente il bilancio si può spostare, e penso che sia questa la tattica del governo in questione, cioè quella di mantenere le cose il più possibile come stanno senza inasprire ulteriormente la situazione fiscale, che comunque è già davvero gravosa, non soltanto in busta paga ma chiaramente anche per quanto riguarda gli investimenti industriali.